Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 6 marzo 2015, boom del settore mobile, nasce l'economia connessa. Anche nel nostro paese il settore mobile sta vivendo una nuova età dell'oro, e questo grazie alla tecnologia 4G, finalmente disponibile pressoché ovunque, anche da questa parte dell'Atlantico. I dati di crescita confermano le previsioni di 3 anni fa, contenute in una ricerca condotta da A.T. Kearney, GSMA Wireless Intelligence e Machina Research. I ricavi del settore sfiorano 2.000 miliardi di dollari a livello globale e l'occupazione nel settore diretto è cresciuta da 8 a 10 milioni in 4 anni. Fin qui la notizia del 6 marzo 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Lo sviluppo della futura rete 4G è stato al centro del Mobile World Congress di Barcellona della scorsa settimana. Massimo Morandi, direttore di Cellulare Magazine. L'abbiamo visto proprio al recente Mobile World Congress di Barcellona. C'è una grandissima attesa delle reti 4G, in particolare della rete mobile LTE, che dovrebbe assicurare un'esplosione di servizi web, ma dovrebbe consentire finalmente anche alle aziende di essere maggiormente connesse e soprattutto di essere connesse con grande affidabilità. Stiamo parlando anche di quelle aziende che sono collocate in luoghi dove oggi la banda larga non arriva. Oggi è difficile con il 3G che è saturo e sovraccarico e soprattutto non garantisce performance stabili, ma ha grandi picchi di velocità sia verso l'alto ma anche dei picchi verso il basso dove i dati non corrono. Con il 4G invece tutto sarà diverso. L'America è già partita, gli Stati Uniti, che erano rimasti piuttosto indietro rispetto all'Europa nell'adozione dell'UMTS, hanno invece già adottato il 4G. Ci sono i prodotti, questa è una situazione un po' strana, molto spesso c'è la tecnologia è pronta ma mancano i prodotti. In questo caso ci sono i prodotti, gli smartphone, i terminali 4G, le chiavette 4G, manca la tecnologia, che manca ancora in Europa. Qui siamo a livello di trial in Germania e in Portogallo. Guardando in casa nostra, gli operatori sperano di attivare qualche città per l'estate per permettere agli utenti di navigare con le chiavette. Non è naturalmente quello che aspetta l'industria o la nostra economia. Penso che dovremmo aspettare per una maggiore estensione del servizio, ovvero una vera partenza vera e propria del servizio commerciale, al 2013. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.